Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, l'appuntamento con i settimanali e i mensili in edicola. Insieme ad Anita Panizza sfogliamo i settimanali e i mensili italiani, ma anche stranieri, che potete trovare in edicola, e vi lanciamo qualche proposta di lettura, così ogni sabato appunto e ogni domenica. Visto che vi ho parlato anche della nostra vocazione un po' internazionale, da un mensile italiano, una storia internazionale, il mensile Airone, e la storia dello zio Sam. Non so quanti di voi abbiano presente, ma penso molti, quel celebre manifesto in cui un signore con il cappello a cilindro chiama appunto all'arruolamento i soldati, un manifesto appunto dello zio Sam che diceva: io voglio te per l'esercito degli Stati Uniti. Questo signore si chiamava lo zio Sam. Ecco, la cosa che invece è molto meno nota di questo manifesto è che Uncle Sam, cioè lo zio Sam, non è un frutto della fantasia di un artista appunto utilizzato per reclutare soldati già dalla prima guerra mondiale, ma è un personaggio che è realmente esistito. Lo spiega Paolo Dondosso, la sua Airone. Il nome di questo signore era Samuel Wilson, faceva il grossista di carni, era nato nel 1766 a Darlington, nel Massachusetts, è morto nel 1854, quindi molto prima del manifesto a cui poi doveva dare il nome. Compare per la prima volta nei quotidiani americani nel 1813. E questo signore Samuel Wilson esercitava un'attività particolare. Lui era il grossista di carni e riforniva anche l'esercito americano. All'epoca l'esercito americano era impegnato nella guerra contro l'Inghilterra, e nelle casse che contenevano la sua carne, che lui consegnava all'esercito, metteva appunto le iniziali US, che stavano per United States, Stati Uniti, o qualche volta USA, USA, che stava per United States Army, esercito degli Stati Uniti. Come a volte succede, chi riceveva quelle casse vedendo questa sigla US gli aveva dato tutt'altro significato, quello appunto di Uncle Sam, cioè zio Sam, e da lì zio Sam è diventato il fornitore, il signor Samuel Wilson è diventato lo zio Sam ed è diventato il fornitore. Dopodiché nel manifesto naturalmente trascese questa vicenda di grossista di carni, fornitore dell'esercito americano, diventò un po' anche nel modo di dire la classica figura dell'americano dalle maniere un po' grezze, che, con un inglese magari dall'accento particolare, dall'accento pesante. Qualche volta si dice lo zio Sam anche per definire in generale l'America o il governo statunitense. Tutto questo su Airone di questo mese. Il lavoro è di Paolo Dondossola, aiutato appunto dalle spiegazioni di Marco Sioli, docente di storia degli Stati Uniti alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano. Eravamo in territorio americano, in territorio statunitense. Carmelo Lauricella questa mattina in regia ha pensato bene di farci ascoltare un brano abbastanza famoso di Benny Goodman. Benny Goodman è la proposta che facciamo questa settimana per la nostra antologia dei miti del jazz. Clarinettista statunitense, tra l'altro bianco, perché suonava però spesso musiche da neri, o che comunque ha contaminato le musiche. E Benny Goodman, noto anche come il re dello swing. Questa era Bugle Call Rag, ma il nostro CD che vi proponiamo, che contiene anche naturalmente una storia della vita di Benny Goodman, ha ben 20 incisioni. Questa è un'incisione del 1936. E adesso cambiamo però completamente argomento, cambiamo anche stato. Qua e là sui mensili e sui settimanali emerge questa vicenda di una gravissima crisi politica belga. Dovete sapere che il Belgio è senza governo, senza guida da 400 giorni, anzi da più di 400 giorni. Ed è la crisi politica, lo ricorda tra gli altri, perché anche altri settimanali se ne sono occupati, tra gli altri lo ricorda anche Vita, il settimanale del no profit, che così scrive: il Belgio continua a sprofondare nella crisi politica più grave della sua storia. Il 7 luglio, tra l'altro, il partito radicale fiammingo ha respinto una proposta avanzata dal socialista Vallone, che avrebbe permesso di rilanciare i negoziati tra le due comunità linguistiche, appunto tra i fiamminghi e i valloni, e poter così riformare lo Stato, dar vita a un governo capace di uscire da questo vuoto di potere. Non pare che si veda una via d'uscita. La maggioranza dei belgi, scrive Vita, è ormai rassegnata all'idea di tornare alle urne in autunno, a meno che non ci siano ulteriori proposte, magari particolarmente dirompenti, come quella che viene avanzata da un professore che si chiama Rick Torfs, che è abbastanza onnipresente, così dice Vita, nei media fiamminghi. Dice: scommettiamo piuttosto su un rafforzamento del Benelux, cioè dell'unione di Belgio, Olanda e Lussemburgo, e rinunciamo in qualche modo a queste nostre questioni interne, appunto tra fiamminghi e valloni. La crisi belga, nella sintesi che ne presenta Vita, ma ripeto, anche su altri settimanali abbiamo trovato più di una citazione. Allora, visto che siamo in area un po' internazionale, una curiosità che ho ricavato da Focus, che abbiamo trovato su Focus, non so se vi siete mai chiesti, probabilmente no, se c'è un Guinness per i ristoranti, cioè qual è il ristorante più grande del mondo. Beh, Focus ce lo segnala. C'è in Siria un ristorante che si chiama Damascus Gate. Nel 2008 è stato proprio certificato dal Guinness dei primati come ristorante più grande del mondo. Si è imposto su un concorrente thailandese. Il Damascus Gate è in grado di offrire fino a 6.014 coperti contemporaneamente, e quindi supera i soli 5.000 posti di quell'altro, del concorrente thailandese. Ha una superficie di 54.000 metri quadri, utilizza 1.200 camerieri. In alta stagione, naturalmente, i camerieri sono un po' di più, diventano circa 1.800. La cucina è grande, un terzo di un campo di calcio. Non vengono però serviti alcolici, naturalmente nel rispetto della legge musulmana. Se vi venisse la curiosità di sapere qual è invece il ristorante più piccolo del mondo, bene, il ristorante più piccolo del mondo è stato trovato, è italiano. C'è un ristorante a Vacone, in provincia di Chieti, si chiama Solo per Due, ha un solo tavolo, accetta solo due persone a pasto, non ci sono code, non ci sono file, non ci sono turni, tutta l'attenzione è dedicata alla coppia che ha prenotato. Segnala Focus che il prezzo non è proprio abbordabilissimo, d'altra parte il locale è tutto per voi, 250 euro a persona, quindi il prezzo è abbastanza importante, ma è comunque un ristorante da Guinness dei primati. Un'altra curiosità di tutt'altra natura, anche perché Carmelo mi segnala che tra poco dovremo cedere la linea alle informazioni sul traffico. Torniamo su Airone per qualche istante, perché tra le varie stranezze che possono caratterizzare la scienza, le scoperte scientifiche, si segnala appunto questa che viene riportata da Luigi Bignami su Airone: ci eravamo persi 657 isole, cioè non sapevamo della loro esistenza. Per quale motivo? Vabbè, innanzitutto perché molte di loro si trovano diciamo in condizioni molto precarie, potrebbero essere sommerse dalle maree, e quindi talvolta nei censimenti non vengono considerate. Sono state scoperte dai ricercatori della Duke University, sono per lo più isole costiere, e quindi il totale a questo punto delle isole del nostro pianeta è di 2146. Magazine 24. Bentornati, bentornati a Magazine 24. So che è domenica, ma mi fa piacere lo stesso parlarvi di lavoro giovanile, in qualche modo di lavoro, come si dice, precario, di lavoro autonomo, di qualche altro tipo che non sia quello più tradizionalmente considerato. Lo faccio perché prendo spunto da un mensile, il mensile è E, si chiama proprio così, E, il mensile, e presenta questo mese appunto una bella inchiesta, il cui articolo di punta è firmato da Roberta Carlini. Poi ci sono però dei dati molto interessanti. Non essendo uno spunto, come dire, particolarmente leggero, forse la giornata della domenica è quella ideale per poterci soffermare. Il titolo assegnato all'articolo di Roberta Carlini è Vita da funamboli. Abbiamo, si apprende già nell'incipit, 18 forme diverse per definire il lavoro flessibile, e ci sono milioni di persone che oramai stanno in questa condizione. Innanzitutto, quanti sono? Perché la condizione di questo lavoro precario, indipendente, fragile, freelance, in transito, flessibile, atipico, così li riassume appunto la Carlini nel suo attacco, contare quanti sono le persone che stanno in questa condizione non è semplicissimo. Dovrebbero essere, contando appunto le varie figure considerate, intorno ai 3 milioni e 100 mila persone. Risultano leggermente in calo rispetto al 2008, erano arrivati a 3.622.000. È abbastanza facile intuire, però, argomenta Carlini, che non è un calo virtuoso derivante da un passaggio al lavoro a tempo indeterminato. I 500.000 che mancano all'appello sono quelli che per primi e più di tutti gli altri hanno pagato la crisi, cioè le vere vittime del crollo. Perché, dice la Carlini, abbiamo 18 forme di lavoro flessibile? Perché infatti possiamo annoverare il lavoro a tempo determinato, l'apprendistato, stato, il contratto di inserimento, la formazione lavoro, il lavoro interinale, il lavoro intermittente, il lavoro a progetto, il job sharing, la collaborazione coordinata e continuativa, quella occasionale, la partita IVA, l'imprenditore vero e proprio, l'associato in partecipazione, il socio di cooperativa, il coadiuvante familiare, lo stagista, la pratica professionale, il tirocinio, e poi c'è anche una definizione di altro che ovviamente ne comprende quelle non così comprese. Il problema vero è, come si apprende da una bella doppia pagina fatta di numeri, che più che altro tutto questo si traduce in una difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, cioè i nostri connazionali che hanno tra i 18 e i 34 anni, e questo mi pare il problema maggiore. In Italia c'è un grafico che mostra, che riassume tutto questo, vi rimando appunto a E, che trovate in edicola, al mensile e nel numero di luglio. In Italia siamo circa 60 milioni, 15 di questi 60 non lavorano. Si calcola che 1,5 milioni di questi 15 in realtà abbia deciso di non cercare neanche più un lavoro. Le forze lavoro sono pari a 25 milioni, due di queste sono, ohimè, disoccupati, e sappiamo che la disoccupazione è molto alta proprio nelle fasce giovanili. Gli occupati quindi scendono a 23 milioni, di questi si calcola che appunto su 23 milioni 4, tra 3 e 4, siano nell'ambito di questo lavoro non standard, cioè non dipendente, non lavoro autonomo scelto per, come dire, per una professione particolare, per una vocazione particolare. Perché dico che poi questo problema diventa particolarmente grave? Lo spiega un altro grafico accanto a quello che vi ho descritto, cioè la fuga dei giovani dal nostro paese. C'è una crescita dei giovani italiani che decidono di risiedere all'estero, cioè tra i 18 e i 34 anni decidono di risiedere in un altro paese che non sia l'Italia. Si calcola che verso altri paesi europei se ne siano andati in 811.000, verso l'America in mezzo milione, più di mezzo milione, e 50.000 verso l'Oceania, qualcuno anche, pochi, 16.000 verso l'Africa. Tutto questo per cercare appunto uno sbocco a quello che in Italia si fatica a trovare. Perché? Perché si è bloccato quello che gli esperti di lavoro e di società chiamano l'ascensore sociale, cioè il fatto che i figli abbiano prospettive migliori rispetto ai padri. Quando si fanno le statistiche, una viene riportata In un articolo di Christian Benna, sempre su E, ci si rende conto che buona parte degli over 50, di chi ha più di 50 anni, dice di aver migliorato il proprio stato sociale rispetto alla sua famiglia d'origine, e invece soltanto una piccolissima percentuale, il 6% dei giovani, afferma di trovarsi in condizioni migliori rispetto ai genitori. Le cose non vanno meglio neppure per chi sceglie una libera professione. È noto come ci sia la difficoltà a retribuire il lavoro giovanile, il lavoro dei praticanti, il lavoro degli stagisti. Quando ricevono un rimborso non si va oltre i 1000 euro mensili, così appunto ricorda Christian Benna nel suo articolo. E non è, devo dire, assolutamente di conforto sapere che anche in altri paesi, qui ci sono diversi casi riportati su E, quello di una ragazza scandinava, quello di una ragazza estone e infine quello di una ragazza cinese, beh, dicevo, non è motivo di conforto sapere che anche in altri paesi si sta affermando questo modello di utilizzo del lavoro giovanile. La storia della ragazza cinese è particolarmente interessante, è una studentessa di e-commerce, quindi un'attività che dovrebbe avere anche degli sbocchi interessanti, ma che è finita a fare uno stage in una di queste fabbriche gigantesche che esistono in Cina, fabbriche da migliaia e migliaia di operai. Riassume così la sua giornata lavorativa: dalle 8 alle 11.30 lavoriamo, poi si pranza, alle 12.30 si ricomincia fino alle 17.30, poi si cena e infine si lavora dalle 18.30 alle 20.30. Fanno 10 ore in tutto, naturalmente gratis, un solo giorno di riposo alla settimana. Questo è lo stage della giovane cinese. Perché le aziende cinesi hanno cominciato a usare gli stagisti? Perché ci sono delle proteste sindacali in Cina, lo abbiamo detto qualche volta anche qui a Magazine 24, riprendendo dalla stampa straniera, e questo ha portato a delle dimissioni pazze, così si chiamano, Quangli è la parola cinese. Ci sono appunto dimissioni date senza nessun tipo di preavviso, perché uno ha trovato un posto anche leggermente migliore. E così è stata introdotta la figura dello stagista, un lavoro che viene definito semigratuito, ma soprattutto senza i diritti dei lavoratori. E allora l'argomento non era allegro, ci serviva qualche cosa di un po' più allegro prima della conclusione della puntata. Abbiamo scelto il clarinetto di Benny Goodman. Davvero, parlandone con Carmelo Lauricella, sentivamo questo disco, qualche brano di questo disco anche ieri in trasmissione, dicevamo è un clarinetto che ha una sorta di ottimismo. E allora, visto che le cose che vi ho descritto non sono molto ottimiste, abbiamo voluto, come dire, tirarci su il morale prima di concludere la puntata. Concludo la puntata stando sempre su E, su questo mensile, perché Patrizia Valduga ci parla della banalità del DNA, la banalità di alcune parole della medicina che entrano nell'uso comune e poi appunto vengono mal usate da noi che viviamo appunto di parole. E, ad esempio, lei dice si fa un grande uso del termine chirurgico, si dice precisione chirurgica, la voce chirurgica, poi non si parla naturalmente di adrenalina pura o allo stato puro. Dalla psicanalisi, ricorda, è arrivata la parola rimozione, tutti dicono di aver rimosso, in realtà la rimozione è un meccanismo inconscio, ricorda la Valduga, chi ha rimosso non dovrebbe sapere di aver rimosso. E poi dice, non senza raccapriccio, vorrei segnalare l'uso giovanilistico di sclerare e sclerato. Auguro a questi due termini brevissima vita, ma noi nel nostro piccolo non possiamo che associarci. Grazie di averci seguito. Magazine 24, come sapete, ritorna sabato prossimo. Grazie ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questa puntata e grazie a Carmelo Lauricella in regia. Se volete scriverci, magazine24@radio24.it. Buona domenica a tutti.